Quando venne l'autunno e già da lucente cominciò a frequentare l'università di Shanghai, 20 d'agosto la vide ancora meno. Dietro suggerimento di talento nobile si era iscritta alla Società degli Studenti per la Salvezza Nazionale e non aveva più tempo per andare a spasso. Se non aveva da studiare o da visitare orfani, doveva frequentare le riunioni politiche, scriveva fino al cuore della notte e distribuiva opuscoli in cui si proclamava tutto quel che bisognava fare per salvare la Cina, sollecitando i patrioti a organizzarsi prima che finisse la guerra, prima che gli alleati restituissero quel che apparteneva ai cinesi. Solo in una Cina forte si potrà trovare la soluzione ai mali della società, spiegava. Talento nobile lavorava con lei. Non possiamo più permetterci un Parlamento esautorato, scriveva, rimpasti di gabinetto, signori della guerra, è ora di formare un governo che tenga insieme la Cina. Nel frattempo, lui e i seguaci di Sun attendevano il momento propizio per tentare nuovamente di stabilire un governo nel sud, un governo che non venisse rovesciato da una cricca. Un mattino d'inverno, già da lucente, fece visita a 20 d'agosto alla MS & Company. Pioveva dalla notte prima e lui aveva lavorato fino a tardi cercando di terminare i suoi conti. Doveva essersi addormentato sull'abaco perché era sulla scrivania quando fu svegliato da un forte bussare e da una voce familiare. 20 d'agosto, apri, devo parlarti, è urgente. Il sole l'accecò mentre lei entrava. Sbatté le palpebre e si prese la testa fra le mani. Sei ubriaco? Chiese lei, seguendolo nella stanza sul retro, dove egli prese una sorsata di tè freddo da una tazza semivuota. Sei ubriaco? Chiese di nuovo. Beh, devo esserlo se ti vedo qua. Sedettero davanti al tavolino col ripiano di marmo dove il suo padrone di un tempo consumava i pasti. Ho bisogno di parlarti, 20 d'agosto. Non dirmi niente, alzò una mano. Lascia che indovini. 100? 5.000? Lei scosse la testa spazientita. Ma non hai letto i giornali negli ultimi giorni? Lui sbadigliò, strofinandosi gli occhi assonnati. Non ne ho bisogno. Nulla è cambiato. Carestia nel nord, inondazioni nel sud, i signori della guerra si combattono dappertutto, i politici invocano la giustizia, gli studenti scioperano, gli stranieri rifiutano il riscatto delle ipoteche, gli insegnanti chiedono più disciplina, i soviet sono i nostri alleati, gli americani non sono affidabili, il Giappone è il nemico, Sun sta montando un'altra campagna, nessuno dà più retta a Confucio. E tu, sorellina mia Margaret, già da lucente, hai bisogno di denaro per un'altra delle tue opere buone. Si strinse nelle spalle, poi andò dietro il paravento per lavarsi la faccia. Infilata in un angolo dello specchio, sopra il lavabo, c'era una foto di Giada Lucente che aveva ritagliato dal bollettino della chiesa. Quando tornò al tavolino, lei era seduta nella stessa posizione, torcendosi le mani. Ricordi quando eravamo bambini, sorella? Chiese lui con dolcezza. Come ci nascondevamo sempre dietro la montagnetta artificiale e studiavamo ad alta voce? Tu non riuscivi mai a preparare la lezione perché io ti facevo ridere. Ti tappavi le orecchie, ma non serviva a niente. E per ripetere le tabelline dovevi guardare da un'altra parte. Sorrideva. Per un attimo l'espressione di lei si addolcì, come se ricordasse veramente. E lui proseguì. Non so perché tutti ti considerassero tanto in gamba. Scommetto che non sai le tabelline nemmeno adesso. Lei non era più divertita. Ah, non ho tempo per queste sciocchezze. Sorella, dimmi la tabellina del 7, per piacere. Lei lo ignorò. Prego? No, smettila con queste assurdità. Lui cercò di prenderle le mani, lei le nascose dietro la schiena. Dimmi la tabellina del 7, altrimenti non ascolterò quel che sei venuta a dirmi. Lei digrignò i denti. 7, 14, 21. Lui la interruppe. 21, 28, 7, 14, 20. Sorella, ricomincia da capo. 7, 14, 21, 20. Ti prego, ricomincia da capo. Lei si alzò. Fratello, tu hai potuto ricominciare da capo. La Cina no. Tu devi aiutarci. C'è tanto da fare per il nostro paese, per la nostra gente. Anche lui si alzò. Perché se la prendeva tanto? Era così missionaria. Non aiuterò degli sconosciuti, disse con voce rauca. Aiuterò te. La domenica precedente la loro partenza per Suzhou, dove tutti avrebbero festeggiato l'anno nuovo, 20 d'agosto arrivò come al solito nella casa sulla Rue Flaubert. Già da lucente era in biblioteca a scrivere, il blocco degli appunti sul bracciolo del divano imbottito. Per terra erano sparsi pezzi di carta, pagine spiegazzate. Cara Margaret, hai forse dimenticato? Oggi è domenica. Lei lo guardò, aveva gli occhi rossi come se avesse pianto. Non vado in chiesa oggi. Che cosa c'è? Non stai bene? Le mise premurosamente una mano sulla fronte. Lei la scostò. Sto benissimo. Che cosa c'è allora? Le campane suonano già. Ho detto che non vado in chiesa oggi. Ma perché? Che cosa è successo? Chiese, benché sapesse la risposta. Come ogni uomo che si era fatto da solo, aveva le sue fonti di informazione, si era già dato da fare per proteggere i suoi investimenti. Lei puntò un dito accusatore sul giornale buttato per terra. Woodrow Wilson ha mentito! La sua disperazione era carica d'odio. Gli alleati hanno mentito. Tutti i cristiani timorosi di Dio hanno mentito. Il titolo proclamava Tradimento a Versailles. Gli alleati non avrebbero restituito, come promesso, le zone di influenza tedesche nello Shantung. Un trattato segreto, firmato mesi prima che la Cina entrasse in guerra al loro fianco, aveva garantito quelle terre al Giappone. Ma come poteva essere così ingenua? Era politica, niente di importante, soltanto politica. Le si avvicinò. Ti prego, vieni in chiesa, ti farà star meglio. Lei lo fissò incredula. Non ti capirò mai. Tu non sei mai stato credente convinto. Venivi in chiesa soltanto per accompagnarmi e ora insisti perché ci vada? C'era qualcosa nella sua voce che non aveva mai sentito prima. Disprezzo? È così difficile capire, sorella. Poiché lei non rispose, dopo un attimo lui proseguì. Non devi voltare la schiena alle tue vecchie convinzioni, Margaret, altrimenti ci farai l'abitudine. Quali convinzioni? Chiese lei amareggiata. Non capisci che la Cina è stata tradita? Il prozio anziano aveva ragione. Tutte quelle chiacchiere sui principi cristiani e sui 14 punti non erano che un trucco per tenerci buoni, in modo da poterci depredare fino all'osso. D'ora in poi non crederò più alle loro promesse. Già da lucente, ribatté lui, tutti coloro che partecipano a una guerra fanno sempre queste promesse per indurre altri a diventare loro alleati. È sempre stato così, non cambierà mai. Tu sembri mia madre! Gli diede uno strattone alla cravatta. Guardati un po', sei vestito come uno di loro. Anche tu avresti mentito. Non te ne importa niente, non te ne è mai importato niente, gridò. Improvvisamente l'una di primavera apparve sulla soglia, batté le mani. Basta, figlia, urli come un mercante, non sai controllarti. Il 20 d'agosto si alzò per mettere la giacca. Ti prego, zia, la colpa è mia. Forse farò meglio ad andarmene. Lanciò un'occhiata verso Giada Lucente. Lei non disse niente. Fu l'una di primavera a parlare. Sì, forse è meglio così. Lo accompagnò alla porta. Lui si chinò, poi esitò, guardandosi alle spalle, sperando di vedere Giada Lucente in fondo all'atrio, ma lei non c'era. L'una di primavera sorrise. Ti aspetto per la cena, 20 d'agosto. Lui si inchinò. Le campane della chiesa avevano smesso di suonare. Si diresse lentamente verso la macchina in attesa. 31. Giochi. C'era una volta un giovane contadino di Shuchao che aveva intrapreso un viaggio, finché un giorno arrivò in un villaggio del Hunan, dove si era fermata una troupe di comici. La fiera fu una meraviglia per lui, con tante attrazioni quante sono le pedine su una scacchiera di Go. C'erano trampoli, danze di draghi, ginnasti danzatori, un panda, un cammello e una scimmia che fumava la pipa. Un imbonitore gli gridò, sorridendo: «Ehi, grandone, vuoi raddoppiare il tuo denaro?» «Come?» chiese il contadino. Solleva la mucca come fa questo ometto qui. Al suo segnale un uomo incappucciato, tanto alto quanto largo, si accovacciò sotto la mucca che perdeva le bave, poi si raddrizzò, sollevando la bestia da terra. Anch'io posso riuscirci, si vantò il giovane e si mise la mucca intorno alle spalle come un mantello di paglia. Il mattino, mentre mangiava fagioli e tagliatelle sul ciglio della strada, 20 uomini apparvero, ciascuno con una spada scintillante. Fra di loro c'era l'imbonitore. Dammi il tuo denaro, disse il ragazzo, se ti è cara la vita. Il contadino si strinse nelle spalle. Ecco le mie vincite, disse. Il resto era mio. L'imbonitore brandì la spada. Dammi anche il resto, altrimenti ti strapperò fuori il fegato e i miei amici ti faranno a pezzi e ti daranno ai porci. Il giovane si alzò lentamente, col sorriso di chi è pronto a combattere fino alla morte. Ma prima che qualcuno di loro venisse mandato oltre le fonti gialle, un uomo basso e tozzo apparve, lo stesso che aveva sollevato la mucca. Con un solo gesto sconfisse i nemici. Chi sei tu? Un capo bandito? Chiese il ragazzo. Il mio nome, disse l'uomo sorridendo, è Pirata delle Montagne. Ma tu devi venire con me e decidere se sono un bandito. E così il contadino andò sulle montagne. Il Pirata delle Montagne da bambino aveva strappato un neonato urlante dalle fauci di una tigre. Da ragazzo aveva disarmato 100 uomini con un solo sguardo. Da adulto aveva portato la pace nei villaggi chiedendo una ricompensa ragionevole. Lui e i suoi uomini vivevano semplicemente, dividendo equamente fra loro tutto quel che avevano, prendendo solo quel che era stato concordato, facendo tutto quel che doveva essere fatto. Perciò il contadino di Sciucciao imparò che la giustizia non è necessariamente agghindata in lunghe vesti e che il ribelle non sempre è nemico. Storia di Clan. Era la sera della seconda domenica della quindicina della pura luminosità e per la prima volta dopo molti giorni Giada Lucente era contenta. Quel mattino Miss Clayton l'aveva convinta ad andare in chiesa. Credevi forse, Margaret, che essere cristiana fosse facile? Nella vita di ogni credente vi sono delle prove, non una, ma molte. E così vi era andata. E quello stesso pomeriggio Dio l'aveva benedetta con la sua grazia, poiché era riuscita a persuadere altri 20 mercanti a mandare telegrammi a Parigi chiedendo che le delegazioni cinesi settentrionali e meridionali abbandonassero Versailles nel caso che lo Shantung venisse dato al Giappone. Ora stava parlando con un vero eroe, un uomo d'azione, non soltanto uno studente. Era l'individuo più alto che avesse mai visto, con ampie spalle e un volto aperto. Si chiamava Spirito Risoluto. Talento nobile l'aveva portato a cena presentandolo come il figlio del fittavolo Lee, un vecchio amico dei tempi della rivoluzione appena tornato dalla Francia. Immediatamente lei aveva voluto conoscere tutti i particolari delle loro imprese e quando il giovane prozio aveva smesso di parlare e sua madre li aveva sollecitati a mangiare prima che il pesce si raffreddasse, si era rivolta all'eroe. Lui l'aveva illuminata in merito al suo ruolo con una risata. Solo dopo molte insistenze da parte sua aveva borbottato qualcosa su una certa commissione riguardante una cesta di meloni. Quest'uomo è diverso, pensò lei, così diverso da 20 d'agosto che vuole sempre farsi grande. Giovane Lee, disse, parlami delle tue esperienze in Francia. Che cosa hai visto là e che cosa hai fatto? Oh, ho visto poco. Scavavo le fosse per i francesi che morivano in guerra. Hai incontrato qualcuno dei nostri studenti? Sì, mi hanno insegnato un po' a leggere e anche fatto capire che dovremmo imparare qualcosa da un tipo di nome Marx. Uno di loro, T.J. Hu, è diventato mio amico. È stato lui che ha aiutato me e gli altri a ritornare. Si interruppe, assorto nei ricordi, poi disse bruscamente: Non mi è piaciuta molto la Francia. Ma perché? Lei avrebbe dato qualsiasi cosa per essere stata in Francia. Oh, beh, finita la guerra, i francesi non ci volevano più. Com'è possibile? Voi siete andati là per aiutarli. Si strinse nelle spalle. Non tutti ci trattavano male, ma non mi piaceva soprattutto perché era tutto così diverso. Per un attimo lei non seppe cosa dire. Ricordò la casupola di lì, i bambini malaticci che dovevano essere i suoi nipoti, l'odore dei rifiuti notturni. E infine non poté più trattenersi. Ho visto il podere che la tua gente coltiva quando era a Sciucciao. Mi è sembrato che non avessero abbastanza da mangiare. Spirito risoluto avvampò. Lascia che il nostro ospite goda il suo pasto, figlia mia. Tu parli troppo. L'una di primavera gli servì un'altra porzione di pollo. Ma mi interessa. Forse, intervenne Talento coraggioso in tono pacato, egli non desidera discutere tali cose di fronte a noi. Oh no, signore, il vostro clan è sempre stato buono con noi. Il padrone mi ha salvato la vita. Spirito risoluto sorrise in direzione di Talento Nobile. Oh, un'esagerazione, un'esagerazione, ribatté il soldato riempiendo il bicchiere del giovane con vino di riso caldo. prima che già da lucente potesse escogitare un modo per ritornare sull'argomento, 20 d'agosto diede un colpetto al suo bicchiere con una bacchetta, sorridendo. Credo, amici miei, che sia venuto il momento di fare un gioco. Oh no, pensò lei. Sì, gridò Promessa Costante. Allora siamo d'accordo. Che ne dite di una gara di distici antitetici? Propose Talento Coraggioso. Devo cominciare io? Io voglio essere il primo. Posso essere il primo? Oh, ti prego. Promessa Costante batté le mani rovesciando il bicchiere. Bene, comincia tu, disse Talento Coraggioso. Silenzio. Allora? Fece Luna di Primavera mettendo al sicuro le tazze di porcellana. Allora? Il bambino avvampò e si coprì gli occhi come se non vedere significasse non essere visti. Non so come fare. Tutti scoppiarono a ridere. Promessa Costante si rivolse a Spirito Risoluto, l'unico che ancora mangiava, e lo tirò per una manica. Me lo puoi spiegare tu? Spirito Risoluto sbirciò da sopra l'orlo della sua ciotola di riso e non disse niente. 20 d'agosto tossì, nascondendo la bocca col fazzoletto. Talento Coraggioso fu il primo a riprendersi. Te lo spiego io, nipote. Si comincia inventando il primo verso di una poesia, poi uno di noi deve proseguire con un'antitesi o un parallelo. Sì, zio, ma qualcuno può spiegarmi il gioco? Anche Talento Coraggioso si mise a ridere. Quando l'ilarità si fu calmata, intervenne Luna di Primavera. Qual è il contrario di terra? Cielo, urlò il bambino. Luna? Sole? Camminare? Correre? Notte? Giorno? Gridò Spirito Risoluto spontaneamente. Guardò il bambino con aria di scusa e Promessa Costante gli sorrise come per dirgli che non importava. Poi chiese: Possiamo cominciare adesso? Fa attenzione, lo mise in guardia Luna di Primavera, siamo appena agli inizi. Alberi verdi? Alberi rossi, disse il bambino. Luna di Primavera scosse il capo. Ma perché Sao Sao? Una parola che sia il contrario di verde e una parola che appartenga alla stessa famiglia di albero. Fiori rossi. Esatto, Luna di Primavera sorrideva. Ora gli uccelli gialli cantano. Promessa Costante respirò a fondo. Le rane verdi chiacchierano. Ci siamo quasi, ma le rane verdi gracidano è meglio. Già da lucente vide che Spirito Risoluto aveva ripreso a mangiare, come se la ciotola fosse un paravento dietro il quale nascondersi. Non capisce il gioco, pensò. E perché dovrebbe? Non era che un passatempo per topi di biblioteca. Se solo fossero potuti andare in salotto a parlare. Luna di Primavera stava arrivando alla fine della sua spiegazione. Il primo verso, Promessa Costante, si chiama testa, la risposta coda. Ora possiamo cominciare. Il bambino si nascose la testa fra le braccia per pensare. Gli adulti aspettavano. Saltò su, aprì la bocca, non venne fuori niente, si accigliò e di nuovo abbassò il capo. Si sentiva soltanto Spirito Risoluto che sorbiva rumorosamente la zuppa. 20 d'agosto ruppe il silenzio. Mio caro amico venuto dalla Francia, perché non facciamo vedere al ragazzo come si gioca? Sorrise con aria innocente. Tu, bellissima fanciulla, sei sublime, fragrante come l'acqua di sorgente, colta e buona. Spirito Risoluto sorrise stringendosi nelle spalle. Fa con comodo, amico, non abbiamo ancora preso il dessert. Ma il contadino non parlava. Fu il bambino a rispondere, tirandolo di nuovo per la manica. Ti ha preso in giro, fratello maggiore. Ora tu devi dire: Io, brutto giovane, sono ridicolo, puzzolente come il fango, stupido e cattivo. Ti ha preso in giro. Spirito Risoluto non sapeva più dove guardare. Già da lucente intervenne rapidamente. No, Promessa Costante, tu l'hai detto. Il mio nuovo amico è troppo intelligente per lasciarsi prendere in giro. Mentre le risate si smorzavano, 20 d'agosto brindò a Già da lucente. Il suo sorriso era amaro. A lei non importava. Non sarebbe riuscito a impedirle di rivedere il figlio del contadino. Quando il pasto fu terminato, Spirito Risoluto si alzò e si inchinò rispettosamente. Miei antenati ed io vi ringraziamo per questo onore. Questo è stato il giorno più felice della mia vita. 32. L'avanguardia. Quello che sarebbe diventato poi noto come il movimento del 4 maggio cominciò quando quel giorno, nell'anno della pecora 1919, Migliaia di ragazzi e ragazze marciavano per Pechino verso il quartiere delle legazioni per protestare contro l'infamia degli alleati e per sostenere la causa della Cina. La polizia li cacciò via. Incoleriti, gli studenti bruciarono la casa di un ministro filo giapponese e ne malmenarono un altro. Molti furono arrestati. L'opinione pubblica era indignata. Mercanti, lavoratori, intellettuali, abitanti di tutte le città principali si unirono in uno sciopero patriottico contro il perdurare delle ingiustizie e l'umiliazione nazionale. Storia cinese. Il sole era già scomparso dietro le cupole e le guglie di Shanghai, ma 20 d'agosto non arrivava ancora. Giada Lucente batteva impaziente i piedi per terra, camminava avanti e indietro per gli uffici delle pubblicazioni della Nuova Cina, si affacciava per vedere se sulla Nanking Road comparisse la familiare freccia penetrante. Perché proprio oggi era in ritardo? Si tastava il campione di stoffa nascosto nella tasca della sua gonna, lo strofinava in continuazione come se fosse un dente malato. Finalmente la macchina apparve. Raccolse i volantini con la scritta Pechino sotto la legge marziale e uscì in fretta dando l'indirizzo all'autista prima di scivolare accanto a 20 d'agosto. Sei in ritardo, lo rimproverò senza salutarlo. Le strade sono bloccate dai dimostranti, abbiamo dovuto fare diversi giri. Si fermò. Eri in pensiero per me? Sì, rispose lei mentendo. Lui sorrise. Come sono felice di vederti, sorella. È da tanto che non ci incontriamo e ho sentito la tua mancanza. Lei evitò il suo sguardo, fissando i volantini che aveva ammucchiato sul fondo della macchina, ma lui sembrò non accorgersene. Hai sentito la mia mancanza, almeno un poco? Perché la guardava così? Rapidamente attaccò il discorso che aveva preparato. Questa mattina, spirito risoluto ed io siamo andati da un certo Mr. Ling per convincerlo a rinunciare, in nome della causa, alle sue merci giapponesi. Nonostante tutti i nostri appelli al suo patriottismo, lui si è rifiutato. Mi ha accusata di essere un'ipocrita e una patriota opportunista. Come ha osato? Fece 20 d'agosto, furibondo. Ha detto proprio così. Ha affermato che voglio far bruciare le merci giapponesi in modo che i miei parenti possano trarre vantaggio da questa situazione. Ma è ridicolo! Gli ho chiesto chi sono questi cosiddetti parenti. Si fermò, guardandolo negli occhi per la prima volta, sperando che dicesse qualcosa, ma lui rimase zitto e lei proseguì. Quell'uomo ha fatto il tuo nome. Si interruppe di nuovo, ma 20 d'agosto continuava a tacere. Ha detto che fingi soltanto di sacrificare il profitto per il patriottismo. Ha affermato che non ti sei disfatto delle tue merci giapponesi, che hai bruciato soltanto quel poco che ti serviva per coprire le pezze fasulle che hai gettato nel fuoco. E quando lo spettacolo è finito, ha detto, tu hai cambiato il marchio delle merci e le hai vendute come cinesi. Io ti ho difeso, ho chiesto una prova, una sola. E lui mi ha detto di rivolgermi a te. 20 d'agosto fece per prenderle le mani, ma lei le ritirò. Lui si strinse nelle spalle e rise. Quel Ling ha molta fantasia. Non hai capito che ha attribuito a me quel che ha fatto lui? Credi veramente che farei una cosa simile? Non lo so, rispose Giada Lucente. Tu lo neghi, allora? Lo nego. Dimmi la verità, mormorò lei lentamente. Dimmi la verità questa volta, 20 d'agosto. È molto importante per me. Lui scosse la testa tristemente. Ma io ti ho detto la verità, Ling mente. 20 d'agosto, tu menti. Prese il pezzo di stoffa dalla tasca e lo allargò sul sedile fra di loro. Era evidente che il marchio era stato cambiato. Dovevi dirmi la verità, gridò lei. Ti ho pregato di dirmi la verità. Raccolse i volantini e aprì il finestrino per parlare all'autista. Fermati subito, ti prego, devo scendere. La macchina accostò al marciapiede. Non aspettò che il russo le aprisse la porta. Davanti all'incrocio un gruppo di giovani era raccolto intorno a un falò. Alcuni scandivano queste parole: Cina, svegliati! Cina, svegliati! Mentre altri alimentavano le fiamme con merci giapponesi confiscate. Uno che sovrastava gli altri si voltò verso la macchina come se l'aspettasse. La puzza di pettini, pneumatici, sapone, sete, profumi, ombrelli, dentifricio, giocattoli, libri, orologi, medicine, termos, era insopportabile. Signore, chiese l'autista, dobbiamo aspettare? Giada Lucente, che aveva sentito, si voltò a guardare. 20 d'agosto stava fissando il fuoco. Ci fu il rumore di un'esplosione. Lui allungò una mano. Lei si voltò e poi corse verso l'incrocio per raggiungere Spirito Risoluto e gli altri. 14 giorni dopo, Giada Lucente si svegliò all'alba. C'era ancora tempo e lei indugiò a letto ripetendosi il discorso che aveva scritto, cambiando una parola qui, una frase là. Doveva essere il più efficace possibile, doveva spingere all'azione anche i più riluttanti. Quando fu soddisfatta, pregò che la sua voce fosse forte, potente come un tuono. Ti prego, Dio. Si lavò rapidamente. Per la prima volta indossò i pantaloni larghi e la casacca dalle maniche corte di cotone blu e si infilò i sandali di paglia che aveva comprato da un venditore ambulante nel settore cinese. Controllò la borsa per essere sicura che contenesse tutto il necessario se non fosse potuta tornare a casa quella sera. Soddisfatta, si fece passare la tracolla sopra la testa e si ispezionò allo specchio. Sì, andava bene, quasi. Per un momento non riuscì a capire cosa mancasse, poi ricordò. Dall'inizio di maggio gli studenti portavano berretti bianchi di cotone, bianchi in segno di lutto, al posto dei Panama giapponesi un tempo molto diffusi. Prese il suo dal comodino e cercò di fissarselo con delle forcine, ma i capelli ribelli scivolavano via dalla crocchia e il berretto cadde per terra. Provò di nuovo. Poi, disgustata, rinunciò e frugò nei cassetti alla ricerca di un paio di forbici. Si sciolse i capelli. Le cadevano fino alla vita. Tenendoli con la sinistra, li tagliò appena sotto le orecchie. Questa volta, quando si rimise il berretto, restò al suo posto. Si guardò ancora nello specchio, sorridendo al cui riflesso. Fuori, diversi altri studenti l'aspettavano con spirito risoluto e il suo amico Hu. Anche Mei Mei si era tagliata le trecce. E tutti risero quando il contadino dichiarò che quelli erano due buoni auspici. Giada Lucente lo guardò e annuì approvando e lui arrossì. Fianco a fianco scesero lungo la Rue Flaubert. A ogni angolo di strada altri giovani erano in attesa per unirsi a loro. Marciarono attraverso il quartiere internazionale raccogliendo sostenitori. Tutto andava secondo i piani. Nessuno dei negozi, tranne alcuni stranieri, era aperto. Persino i mendicanti si erano allontanati dalle postazioni abituali. Anche loro si erano uniti allo sciopero. Agli incroci mucchi di merci giapponesi bruciavano, mentre gli spettatori applaudivano. Ragazze con l'uniforme di scuola dirigevano il traffico. Si fermarono soltanto al vicolo delle lanterne. Davanti a un negozio di riso, un mercante cinese urlava a un picchetto di giovani arrabbiati: Andatevene! Io non ho mai chiuso questo negozio! Non ho mai avuto sfortuna! Non lo chiuderò mai! Uno dei giovani riconobbe Giada Lucente e la spinse avanti. Solo tu puoi persuaderlo, devi. È l'unico che si rifiuta di chiudere in tutto questo settore. Che cosa poteva fare? Guardò Hu, aspettandosi quasi che venisse in suo aiuto con qualche tattica ispirata a Lenin. Hu si strinse nelle spalle e il mercante urlava sempre più forte. I miei antenati non hanno mai chiuso questo negozio, né lo farò io, spezzando la catena della fortuna. Andatevene. Antenati. Catena della. Ah, per poco Giada Lucente non sorrise. Era così semplice in fondo. Non lo avrebbe molestato né insultato, ma l'avrebbe venerato davanti a tutti, costringendolo a comportarsi più degnamente. Alzò una mano chiedendo il silenzio e persino il mercante tacque, osservandola. Senza dire una parola, lei cadde in ginocchio e fece cutù. La folla uscì in un'esclamazione soffocata. Tre volte la sua fronte toccò terra, poi lo implorò: Amico mio, onora i tuoi antenati, onorando il tuo paese. Alzò gli occhi verso di lui. Il mercante era pallidissimo. Lei fece di nuovo: Cutù! Se non farai il tuo dovere, lascerò la mia testa sulla tua soglia finché non cercherai il sentiero della virtù. Lo guardò di nuovo. E finalmente il mercante sconvolto parlò con voce tremante. Mi unirò allo sciopero. Ora va! La folla acclamò, sorridendo trionfante. Giada Lucente si alzò e, prendendo a braccetto Spirito Risoluto e Hu, ripartì alla testa del corteo. Dietro di lei si sentì il rumore di una serranda che si abbassava lentamente. Centinaia di giovani erano già raccolti davanti ai magazzini Wing On nella concessione inglese quando Giada Lucente e Spirito Risoluto apparvero alla testa del loro gruppo lungo la Nanking Road. Le ragazze distribuivano mucchi di volantini, i giovani portavano striscioni bianchi con caratteri scritti in rosso. Liberate gli arrestati, boicottate le merci giapponesi, denunciate i traditori, abbasso l'imperialismo. Cittadini, sveglia! Il carro era al suo posto, insieme col megafono e col tamburo. Faceva caldo e Giada Lucente fu contenta quando Spirito Risoluto la fece salire sulla piattaforma improvvisata. La guardò, sorridendo. Non preoccuparti, verrò subito. Non farti scrupoli, unisciti pure alla gente, ti conoscono e si sentiranno più sicuri vedendoti fra di loro. Rimase a guardarlo mentre si faceva strada fra la folla e poi si voltava verso Hu per ordinargli di cominciare a battere il tamburo. Ma i dimostranti ignorarono quel richiamo all'ordine, continuando a chiacchierare, a mormorare fra di loro, ridendo di tanto in tanto. «Dai il tamburo a me!» disse Giada Lucente. Quando il rullare del tamburo soffocò ogni altro rumore, lei lo mise da parte e cominciò. «Cittadini di Shanghai, popoli di tutto il mondo, ascoltate e fate attenzione! La Cina si è svegliata! La Cina è unita! La Cina parla con una sola voce!» Studenti, letterati, contadini, mercanti, lavoratori, artigiani, uomini, donne, bambini, tutti parlano con una sola voce. La folla acclamò. Che applaudano pure, pensò. Dobbiamo farci sentire. I suoi occhi scorrevano sul pubblico, qua e là riconosceva un volto nella folla. Cittadini di Shanghai, popoli del mondo, siamo qui radunati per affermare la nostra sovranità, per protestare, poiché promesse che c'erano state fatte solennemente sono state proditoriamente infrante. A coloro che ci trattano come schiavi, a coloro che vogliono sottometterci, degradandoci, a costoro diciamo basta, basta. La folla ripeté il grido. Basta! Ascoltate la nostra voce. Mentre un tempo molti seguivano sentieri diversi, ora c'è un solo popolo. Noi chiediamo giustizia, giustizia a Versailles, giustizia in patria, giustizia negli alti organi di governo. Noi ci faremo sentire. Voi che volete intralciare il nostro giusto cammino, fate attenzione. Voi che avete scritto la Magna Carta. La dichiarazione di indipendenza, voi che un tempo avete gridato libertà, uguaglianza, fraternità, voi che vi siete chiamati democratici e ministri del popolo, fate attenzione. La Cina si è risvegliata. Finché vi sarà chi ci disonora, i patrioti marceranno. Gli studenti non studieranno, i lavoratori non lavoreranno, i mercanti non commerceranno, finché non sarà fatta giustizia. Che il paese resti dunque paralizzato. La Cina si è risvegliata, tremate! Presto vi sarà un nuovo corso, un nuovo rinascimento, una rivoluzione culturale, tremate, tremate! Ora l'acclamazione era come un'onda senza fine che la riempiva di pura gioia. Aveva portato a termine il suo compito, ebbene! Scese dal carro e lentamente, circondata dagli studenti eccitati, si mise alla testa della folla. Poi, alzando il tamburo, lo batté ritmicamente e cominciò a marciare. Altri la seguirono, per una strada, poi per un'altra, nelle grandi arterie del settore europeo, echeggiava lo slogan «Cina, svegliati!». Improvvisamente i dimostranti si fermarono, trovandosi di fronte a una barriera compatta di poliziotti. Alla loro testa il comandante europeo brandiva la spada. Ordinò agli studenti di disperdersi, altrimenti li avrebbe arrestati. «Arrestateci! Arrestateci!» gridò Giada Lucente. «Tutti patrioti in prigione!» La folla le fece eco all'unisono. «Le nostre voci hanno la forza di un ciclone!» pensò. La polizia cominciò ad accerchiare l'avanguardia. Spirito Risoluto comparve come dal nulla e la prese per un braccio. «Vieni! Ti porto fuori di qui!» Lei si liberò. «Ma io non voglio venire!» «Ho promesso a tuo zio che avrei badato a te. Tu devi venire con me!» «No!» sorrise. «Non sei un patriota? Non andrai in prigione?» «Ma io ho promesso!» «Non abbiamo guidato tutti e due questa marcia? Noi, più di chiunque altro, dobbiamo andare in prigione!» Per un istante gli rimase perplesso, poi buttò indietro la testa ridendo e prese a gridare: «In prigione! Tutti i patrioti in prigione!» La prigione era una stanza vuota al piano terra di una scuola. Quando furono chiusi dentro, i patrioti applaudirono. Seduti per terra, chiacchieravano e a turno si raccontavano storie e cantavano. Il mattino dopo le porte furono aperte e agli studenti fu detto di tornarsene a casa. Giada Lucente si alzò e immediatamente protestò: Non me ne andrò finché i traditori di Pechino non saranno puniti. Spirito risoluto si alzò e dichiarò: Non me ne andrò finché i traditori di Pechino non saranno puniti. A uno tutti si alzarono e formularono lo stesso proposito. Per tutta la Cina la risposta non fu che quella.